mundo carne e demone a Pagostini a Cie. A mundo carne e demone a Pagostini a Cie, liber sedevo, oh, sedevo. A mundo carne e demone a Pagostini a Cie, liber sedevo, oh, liber sedevo. Amundo carne demone a Pagostini a Cie, amundo carne demone a Pagostini a Cie, liber sedemo, liber sedemo, sedemo, sedemo. E tenebris e latebris victoriam celebris, ostem ridevo, ridevo, e tenebris e latebris, victoriam celebris, ostem ridevo, ridevo, ridevo. Avundo carne demone a Pagostini a Cie, liber sedevo, oh, sedevo. Avundo carne demone a Pagostini a Cie, liber sedevo, oh, liber sedevo. Amundo carne demone a Pagostini a Cie, amundo carne demone a Pagostini a Cie, liber sedemo, liber sedemo, sedemo, sedemo, sedemo.